ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Il diario di Eti Illesum. Traduzione di Chiara Passanti. Mercoledì mattina. Non devo aver pregato abbastanza bene stanotte. Quando ho letto il suo biglietto stamattina, qualcosa si è spezzato, qualcosa mi è traboccato dentro. Stavo occupandomi della tavola per la colazione e di colpo dovetti congiungere le mani e chinare profondamente il capo, e le lacrime che avevo tenute dentro a lungo mi inondarono il cuore. E in me c'era così tanto amore, compassione, dolcezza e anche così tanta forza che dovrà pur servire a qualcosa. Dopo aver letto le sue parole, ho vissuto un momento di una serietà e di un'intensità estreme. Sembra forse strano, ma per me queste poche parole, scarabocchiate con una matita sbiadita, sono la prima lettera d'amore che ricevo. Ho valigie piene di cosiddette lettere d'amore. Uomini diversi mi hanno scritto tante parole, appassionate e tenere, imploranti e piene di desiderio, parole con cui hanno cercato di riscaldare e sé e me, e spesso erano fuochi di paglia. Ma le sue parole di ieri, tu, ho il cuore grosso, e quelle di stamattina, cara, voglio continuare a pregare, sono il dono più prezioso che il mio cuore viziato abbia mai ricevuto. Di sera. No, non credo che andrò a fondo. Oggi pomeriggio ho passato un momento di grandissima disperazione e tristezza. Non per le cose che succedono, ma semplicemente per me stessa, al pensiero di lasciarlo solo. Non ero neppure triste per la nostalgia che sentirò di lui, ma per quella che lui sentirà di me. E solo un paio di giorni fa avevo pensato che non mi sarebbe più potuto succedere niente se avessi ricevuto l'ordine di partenza, tanto ormai avevo già vissuto e sofferto anticipatamente ogni cosa. Oggi, invece, mi sono resa conto che tutto mi può pesare, anche più di prima. È stato molto duro. Ti sono stata un po' infedele, mio Dio, ma soltanto un po'. Ogni tanto questi momenti di disperazione, quasi di temporanea estinzione, fanno bene. Una pace ininterrotta sarebbe quasi sovrumana. Ora so di nuovo che saprò superare ogni momento di disperazione. Oggi pomeriggio. Non avrei potuto immaginare che stasera sarei stata seduta così tranquilla e concentrata a questa scrivania. Tutto in me s'era spento. Non sapevo più pensare coerentemente, era una profonda, terribile tristezza. E poi le mille piccole preoccupazioni, i piedi che fanno male dopo mezz'ora, il mal di testa che può crescere al punto da farmi scoppiare, eccetera, eccetera. Ora è tutto passato. So che sarò spesso a pezzi, che molte volte ancora stramazzerò distrutta su questa terra di Dio. Ma con la mia tenacia riuscirò sempre a rialzarmi, anche se oggi pomeriggio ho attraversato una fase di indurimento e di ottundimento spirituale e ho visto a che cosa mi potrei ridurre dopo essere vissuta per anni in una situazione disperata. Ora, però, la mia testa è limpida come non mai. Domani devo parlare con lui del nostro atteggiamento verso il nostro destino. Devo proprio. Mi hanno portato le lettere di Rilke, 1907-1914 e 1914-1921. Spero di fare in tempo a leggerle tutte. E anche Schubert mi è arrivato. È stata Iupi a portarmi tutto quanto. È come un altro San Martino si è sfilata il suo golf di pura lana di pecora che ripara tanto bene dalla pioggia e dal freddo. È così. Ho già qualcosa da mettermi per il viaggio. E chissà che non riesca a far stare tra le mie coperte i due volumi dell'idiota e il vocabolarietto Langenscheidt. Sarei disposta a portarmi un po' meno da mangiare per farci stare quei libri. Meno coperte non è possibile. Già così patisco mortalmente il freddo. Oggi pomeriggio ho trovato lo zaino di Hans in corridoio. L'ho provato di nascosto. Non era del tutto pieno, ma anche così era troppo pesante per me. Del resto, sono nelle mani di Dio. E lo è anche il mio corpo, con tutti i suoi piccoli dolori. Quando mi ritroverò a terra, distrutta e stordita, bisognerà che in qualche angolino di me stessa io sappia che mi rialzerò un'altra volta, altrimenti sarò perduta. Vado per una strada e ho una guida per percorrerla. Ogni volta ritrovo la mia memoria e allora so meglio che mai come devo comportarmi, o piuttosto so che lo saprò in ogni circostanza. Cara, voglio continuare a pregare. Gli voglio così bene. E anche oggi mi chiedo se non sia più facile pregare da lontano e continuare a vivere interiormente insieme con lui che vederlo soffrire da vicino. Sarà come sarà. Il mio unico rischio è che il mio cuore si spezzi per l'amore che provo per lui. Ora voglio ancora leggere un po'. Quando prego, non prego mai per me stessa. Prego sempre per gli altri. Oppure dialogo in modo pazzo, infantile o serissimo con la parte più profonda di me che per comodità io chiamo Dio. Non so. Trovo così infantile che si preghi per ottenere qualcosa per sé. Bisogna che domani gli chieda se prega mai per se stesso. E allora vuol dire che lo farò anch'io. Mi sembra infantile anche pregare perché un altro stia bene. Per un altro si può solo pregare che riesca a sopportare le difficoltà della vita. E se si prega per qualcuno, gli si manda un po' della propria forza. Per tanti, la peggior sofferenza è la totale impreparazione interiore, per cui crollano miseramente già prima di aver visto un campo di lavoro. Secondo loro, la nostra catastrofe è completa e definitiva. L'inferno di Dante è davvero un'operetta frivola al confronto. Questo è l'inferno. Così aveva detto lui poco tempo fa, molto semplicemente e molto oggettivamente. Certe volte la mia testa si sente urlare, mucchiare, fischiare intorno e i cieli si stendono così bassi e minacciosi sopra di me. Eppure, di tanto in tanto riaffiora quell'umore leggero e come danzante che non m'abbandona veramente mai e che non è umorismo macabro, perlomeno non credo. Col passare del tempo mi sono pian piano preparata a questi momenti. Ora posso continuare a vivere indisturbata guardando con occhio limpido alle cose. In questi ultimi anni non mi sono solo occupata di belle lettere alla mia scrivania. E queste cose potranno ancora compensare un anno e mezzo che è stato come un'intera vita di dolore e di distruzione. Sono cresciute dentro di me e io con loro. Sono diventate una perenne riserva che mi aiuterà a vivere senza stentare troppo. Più tardi. Voglio ricordarmi una cosa per i miei momenti più difficili. Voglio tenerla sempre presente. Dostoevskij trascorse 4 anni di galera in Siberia avendo la Bibbia come sua unica lettura. Non gli era permesso star solo e anche l'igiene lasciava molto a desiderare. 16 luglio, 9:30 di sera. Hai altri progetti per me, mio Dio? Posso accettare. Io rimango comunque pronta. Domani mi troverò nell'inferno. Devo essere ben riposata per affrontare quel lavoro. Solo di oggi avrò da raccontare per un anno intero. Jaap e Loput, il vecchio amico, che diceva «Non posso certo permettere che Etti sia trascinata nel Drente». Io dicevo a Jaap, dopo che Leo de Wolf ci aveva di nuovo fatto risparmiare un'attesa di ore. Più tardi dovrò far molto per gli altri, devo pur ripagare tutto ciò. Non è lecito, non è giusto che questo capiti nella nostra società. Liesel ha detto con molto spirito, sei appunto una vittima del favoritismo. In quel corridoio, in quella calca e in quell'angoscia sono riuscita ancora a leggere alcune lettere di Rilke. Continuo a vivere a modo mio. Quell'angoscia mortale su tutti quei volti. Mio Dio, quei volti. Ora vado a dormire. Spero di essere come un centro di tranquillità in quel manicomio. Mi alzerò presto per potermi concentrare. Mio Dio, che progetti hai in serbo per me? Quell'ordine di partenza non mi era veramente entrato dentro che già, dopo un paio d'ore, non c'era più. Com'è potuto succedere così in fretta? Esse aveva detto: «Oggi pomeriggio ho letto il tuo diario e dopo averlo letto sapevo che non ti sarebbe successo niente. Devo fare qualcosa per Liesel e per Werner, devo proprio. Non affrettatamente, ma con attenzione e concentrazione. Magari mettergli una lettera in tasca. È successo un miracolo. E anche questo deve essere accettato e sopportato. 19 luglio, domenica sera, le 10:10. Avrai tante cose da dirti, mio Dio, ma devo andare a dormire. Sono come narcotizzata e se non vado a letto alle 10 non sarò in grado di reggere a un'altra giornata come questa. Del resto, prima dovrò aver trovato una lingua completamente nuova per parlare di tutto ciò che ha toccato il mio cuore in questi ultimi giorni. Non ho affatto chiuso con noi due, mio Dio, né con questo mondo. Voglio vivere ancora a lungo e voglio condividere il destino riservato a tutti noi. Questi ultimi giorni, mio Dio, questi ultimi giorni. E stanotte. Esse respira proprio come cammina. Ho detto sotto le coperte: preghiamo insieme. No, non posso dire tutto quel che c'è stato in questi ultimi giorni. E stanotte. Eppure sono una dei tuoi eletti, mio Dio, perché mi concedi di prendere tanta parte a questa vita e perché mi hai dato abbastanza forza per sopportare tutto quanto e perché il mio cuore è anche lui in grado di sopportare sentimenti così grandi e così intensi. Stanotte alle 2, quando sono finalmente salita di sopra e mi sono inginocchiata nel mezzo della camera di Dicky, quasi nuda e completamente sciolta, ho detto improvvisamente: ho certo vissuto delle cose grandi quest'oggi e questa notte, mio Dio. Ti ringrazio perché sono in grado di sopportare tutto e perché tu lasci che così poche cose mi passino accanto senza toccarmi. E ora a letto. Luglio, lunedì sera, le 9:30. Senza pietà, senza pietà. Ma tanto più misericordiosi dobbiamo essere noi nel nostro cuore. La mia preghiera di stamattina presto non voleva dir nient'altro che questo. Mio Dio, è un periodo troppo duro per persone fragili come me. So che seguirà un periodo diverso, un periodo di umanesimo. Vorrei tanto poter trasmettere ai tempi futuri tutta l'umanità che conservo in me stessa, malgrado le mie esperienze quotidiane. L'unico modo che abbiamo di preparare questi tempi nuovi è di prepararli fin d'ora in noi stessi. In qualche modo mi sento leggera, senza alcuna amarezza e con tanta forza e amore. Vorrei tanto vivere per aiutare a preparare questi tempi nuovi. Verranno di certo, non sento forse che stanno crescendo in me ogni giorno. Stamattina ho pregato presa poco così. Mi è venuto spontaneo di inginocchiarmi su quella dura stuoia di cocco del bagno e le lacrime mi scorrevano sul volto. E credo che quella preghiera mi abbia dato forza per tutto il giorno. Ora leggo ancora una piccola novella. Continuerò a vivere a modo mio, in tutte le circostanze, anche se devo battere a macchina 1000 lettere al giorno, dalle 10 di mattina alle 7 di sera, e se torno a casa alle 8 coi piedi rotti dal camminare e devo ancora cenare, riuscirò sempre a trovare un'ora. Rimarrò completamente fedele a me stessa e non mi rassegnerò né mi piegherò. Potrei forse reggere a questo lavoro se non attingessi ogni giorno a quella gran pace e chiarezza che sono in me? Sì, mio Dio, ti sono molto fedele in ogni circostanza. Non andrò a fondo e continuo a credere nel senso profondo di questa vita. So come devo continuare a vivere e ci sono in me e in lui delle certezze così grandi. Ti sembrerà incomprensibile, ma trovo la vita così bella e mi sento così felice. Non è meraviglioso? Non oserei dirlo a nessuno con così tante parole. 21 luglio, martedì sera, le 7. Oggi pomeriggio, durante quella lunga camminata per tornare a casa, quando le preoccupazioni volevano assalirmi un'altra volta e sembrava che non mi dessero più pace, mi sono detta tutto un tratto: se tu affermi di credere in Dio, devi anche essere coerente. Devi abbandonarti completamente e devi aver fiducia. E non devi neppure preoccuparti per l'indomani. Poi, mentre facevamo 4 passi lungo il canale, e ti ringrazio, mio Dio, che questo sia ancora possibile, mi varrebbe la pena di sgobare tutto il giorno per stare 5 minuti con lui. Esse ha detto: «Oh, quelle preoccupazioni che abbiamo tutti». Allora ho ripetuto: «Dobbiamo essere coerenti. Se abbiamo fiducia, dobbiamo averla fino in fondo». Mi sembra di custodire un prezioso pezzo di vita, con tutta la responsabilità che me ne viene. Mi sento responsabile per quel grande e bel sentimento della vita che mi porto dentro. Devo cercare di mantenerlo intatto in questo tempo, per poterlo trasmettere a un tempo migliore. È l'unica cosa che conta, e ne sono pienamente cosciente. Ci sono dei momenti in cui penso che dovrei rassegnarmi e soccombere, ma ogni volta ritrovo quel senso di responsabilità nei confronti della vita, che in me va veramente tenuto vivo. Ora leggo ancora alcune lettere di Rilke e poi molto presto a letto. Fino ad oggi la mia vita personale è stata infinitamente buona. In mezzo alle petizioni urgenti che ho battuto a macchina, in quell'ambiente che sta a metà tra l'inferno e un manicomio, ho ancora letto un po' di Rilke e mi ha dato di nuovo così tanto, come se l'avessi letto nel ritiro della mia camera silenziosa. Ma almeno ho scoperto in me stessa il gesto con cui si accosta il grande al grande. Non per sbarazzarci del suo peso, che è grande in tutto ciò che è grande e infinito in tutto ciò che è incomprensibile, ma per poterlo ritrovare sempre in quel luogo elevato, dove la sua vita continua a svolgersi indipendentemente dal nostro dolore e dal nostro smarrimento, che sono così limitati al confronto. E volevo ancora dire questo: credo di essere arrivata pian piano a quella semplicità che ho sempre desiderato. 22 luglio, le 8 di mattina. Mio Dio, dammi la forza, non solo spirituale, ma anche fisica. In un momento di debolezza ti voglio confessare sinceramente che se devo lasciare questa casa non so proprio che fare. Però non voglio preoccuparmi in anticipo. E dunque toglimi il peso di queste preoccupazioni. Se dovessi portare anche quello, oltre a tutto il resto, dubito che sarà in grado di vivere. Sono tanto stanca oggi, in tutto il corpo. Non ho molto coraggio per affrontare il lavoro di questa giornata. Non credo molto in questo lavoro. Se dovesse continuare a lungo, credo che diventerei completamente fiacca e rassegnata. Eppure ti sono grata perché non mi hai permesso di rimanere seduta a questa tranquilla scrivania, ma mi hai portato in mezzo al dolore e alle preoccupazioni di questo tempo. Un idillio con te In una stanza da studio ben protetta non sarebbe proprio tanto difficile. Ora invece è importante che io ti porti con me, intatto, attraverso tutte queste vicissitudini e che ti rimanga fedele, così come ti ho sempre promesso. Camminando per le strade ho da riflettere molto sul tuo mondo. Riflettere non è la parola giusta, è piuttosto un cercare di approfondire le cose con un nuovo organo o senso. Spesso ho la sensazione di vedere questo tempo in prospettiva, come una fase della storia di cui conosco già l'inizio e la fine e che posso inquadrare nel tutto. Sono riconoscente di non provare nessun odio o amarezza, ma di avere una così gran calma che non è rassegnazione, e anche una sorta di comprensione per questo tempo, per quanto strano ciò possa sembrare. Si deve poter capire questo tempo se si capiscono gli uomini. È infatti opera nostra. Il presente è quello che è. E come tale lo si deve poter capire, malgrado lo sconcerto che si prova ogni tanto. In qualche modo io seguo la mia via interiore, che diventa sempre più semplice ed è lastricata di benevolenza e di fiducia. 23 luglio, giovedì sera, le 9. Le mie rose rosse e gialle si sono completamente schiuse. Mentre ero là, in quell'inferno, hanno continuato silenziosamente a fiorire. Molti mi dicono: come puoi pensare ancora ai fiori di questi tempi? Ieri sera, dopo quella lunga camminata nella pioggia e con quella vescica sotto il piede, sono ancora andata a cercare un carretto che vendesse fiori e così sono arrivata a casa con un gran mazzo di rose. Ed eccole lì, reali quanto tutta la miseria vissuta in un intero giorno. Nella mia vita c'è posto per tante cose e ho così tanto posto, mio Dio. Oggi, mentre passavo per quei corridoi così affollati, ho sentito improvvisamente un gran desiderio di inginocchiarmi sul pavimento di pietra in mezzo a tutta quella gente. L'unico atto degno di un uomo che ci sia rimasto di questi tempi è quello di inginocchiarci davanti a Dio. Ogni giorno imparo qualcosa sugli uomini e mi rendo sempre più conto che non si può trovare aiuto negli altri, che dobbiamo sempre più contare sulle nostre forze interiori. Il senso della vita non è soltanto la vita stessa, aveva affermato S una volta in cui dicevamo che era importante non smarrire questo significato. Spesso mi viene da dire: c'è un gran marciume in quel posto, ma oggi d'un tratto ho pensato: se dico sempre quella parola, marciume, esso finisce per propagarsi nell'atmosfera e non la rende certo migliore. La cosa più deprimente è sapere che quasi mai nelle persone con cui lavoro l'orizzonte interiore si amplia con queste esperienze. Non soffrono neppure in profondità, odiano e sono ciecamente ottimisti se si tratta della loro piccola persona e sono ancora ambiziosi per il loro piccolo impiego. È una gran porcheria. E ci sono dei momenti in cui mi perdo completamente di coraggio e vorrei abbandonare la testa sulla mia macchina da scrivere e dire: non posso più andare avanti così. Ma poi vado avanti e imparo sempre qualcosa sugli uomini. Ora sono le 10. Dovrei andare a dormire, ma vorrei tanto leggere qualcosa. Sto ancora divinamente bene. Liesel? La piccola coraggiosa Liesel sta su fino alle 3 di notte e confeziona borsette per una fabbrica. E Werner non si è tolto i vestiti per 60 ore di seguito. Sono successe molte cose strane nella nostra vita, mio Dio. Dà forza a tutti noi e soprattutto fa che lui stia di nuovo bene e non portarmelo via. Oggi, di colpo, la paura che lui mi venga improvvisamente a mancare. Mio Dio, ho promesso che avrei confidato in te e ho di nuovo scacciato il mio timore e le mie preoccupazioni per lui. Sabato notte saremo insieme. Non posso essere abbastanza riconoscente che questo sia ancora possibile. Oggi è stata di nuovo una giornata molto pesante, eppure sono riuscita a sopportarla. Ora vorrei tanto dire qualcosa di molto bello, non so perché, qualcosa sulle rose o sul mio amore per lui. Leggerò due poesie di Rilke e poi a dormire. Sabato mi prendo un giorno libero. Lo strano è che non ho problemi fisici, niente mal di testa, mal di stomaco, eccetera. A volte c'è qualche piccola avvisaglia in questo senso, ma allora mi ritiro nella mia pace interiore fin tanto che il sangue non mi scorre di nuovo regolarmente nelle vene. I miei malanni dovevano avere una radice psicologica. Non è neppure una calma forzata, come molti credono, o un inizio di affaticamento. Se le stesse cose mi fossero capitate un anno fa, sarei crollata dopo 3 giorni, o mi sarei suicidata, o avrei preso degli atteggiamenti forzatamente vivaci. Ora invece c'è un tale equilibrio e pazienza e pace e senso di prospettiva e anche una qualche intuizione sui rapporti tra le cose, non so cosa sia, ma malgrado tutto sto molto bene, mio Dio. Sono troppo stanca per leggere adesso, domani mattina mi alzerò presto e me ne starò un pochino a questa scrivania. Oggi, mentre dicevamo che avremmo voluto rimanere insieme, ho di nuovo pensato. Ti vedo già adesso così malandato. Ti voglio tanto bene, ma la cosa peggiore sarà vederti soffrire e stentare accanto a me. Preferirei pregare per te da lontano. Accetterò tutto come avverrà, mio Dio. Non credo molto in un aiuto dall'esterno. Né ci conto su inglesi o americani o una rivoluzione o Dio sa cosa. Non ci si può attaccare a queste cose. Quel che viene è bene. Buonanotte.